si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, l'orario della domenica dalle 8.30 fino alle 11. I nostri contatti per interagire in diretta con noi in tempo reale su Facebook Si può fare trattino Radio 24, il nostro account su Twitter invece è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Anche oggi vogliamo iniziare però con una buona notizia. And now the good news! Che più che altro anche questa di oggi è una bella storia, un Forrest Gump italiano capace di attraversare a piedi tutto lo stivale, da nord a sud, da Bolzano a Portopalo, a piedi per festeggiare i suoi 80 anni. Pensate, il signor Alessandro Belliere ha fatto una marcia di 1759 chilometri, percorsi in 44 giorni, dormendo in parrocchie e conventi. La partenza il 10 settembre da Predoi, comune più a nord d'Italia, l'arrivo a Portopalo di Capopassero qualche giorno fa, il comune più meridionale d'Italia. Ho portato con me un GPS in modo che tutti potessero controllare i miei spostamenti, ha detto e poi ha commentato. Non sopporto di vedere uomini della mia età ed anche molto più giovani seduti al bar tutto il giorno a leggere il giornale, a giocare a carte. Questa, come dire, 80 anni, ha fatto 1700 chilometri. Questo per dire come ci si può, come si può vivere, come si può stare bene e in forma anche a 80 anni. Quindi c'è speranza per tutti. Adesso però andiamo sulle prime pagine dei giornali per cominciare così a trovare un po' di spunti, prima poi di aprire anche i microfoni e i vostri interventi al numero verde più avanti, però dopo le 9:10. Il Corriere della Sera, piano per il rientro di capitali, questa è una notizia che riporta il Corriere, sanzioni più leggere per chi autodenuncia i fondi all'estero, cioè starebbe scattando l'offensiva del governo per fare rientrare i capitali italiani esportati illecitamente in Svizzera. Ci si potrà autodenunciare pagando imposte e interessi per tutti gli anni non prescritti, ottenendo uno sconto sulle sanzioni. Questa è una notizia diversa che è al Corriere, perché poi i giornali si occupano molto di politica, di Renzi, di Berlusconi e al solito. Sempre dalla prima pagina del Corriere, leggiamo però, una centrale d'ascolto del Datagate a Roma, Merkel spiata dal 2002, vedremo più avanti un approfondimento anche sulla stampa a proposito di questa notizia. Intanto registriamo che sul settimanale tedesco Spiegel spunta l'indiscrezione che Angela Merkel sarebbe stata spiata dal 2002 e che l'azione si sarebbe conclusa soltanto nel 2013. Sempre lo Spiegel racconta che gli Stati Uniti potevano contare su 80 centri di ascolto comuni, CIA, NCA, e uno di questi si trovava proprio a Roma, quindi ovviamente all'insaputa, credo, del governo italiano, però come dire, cioè, vedete come questo scandalo Datagate si allarga, coinvolge tutti, nessuno può dirsi fuori da questa vicenda. Dicevamo della politica e di Renzi in particolare, dalla prima pagina di Repubblica, basta con il proporzionale, l'attacco di Renzi dalla Leopolda su questo tema, se vinco voglio gente nuova. Poi c'è spazio anche per uno scontro con Cuperlo sui simboli del Partito Democratico. Epifani, il segretario del PD, che dice non c'è solo Matteo. Andiamo a leggere all'interno un piccolo approfondimento. La mossa del sindaco sulle riforme, meglio il porcellum della palude. Più che altro la notizia è questa: Matteo non crede nel voto nel 2014. L'ultima finestra è a gennaio. Leggiamo Goffredo De Marchis. L'unica finestra per votare nel 2014 è gennaio, avrebbe detto Renzi ai suoi fedelissimi. Ma Napolitano e Draghi, che hanno un asse fortissimo, non consentiranno più alcuna crisi. Ci avviciniamo troppo al semestre di presidenza europeo dell'Italia e l'Unione, la Banca Centrale Europea vogliono un governo stabile. Anche la Merkel la pensa così. Renzi appare il più prudente di tutti, non crede a uno showdown provocato dal centrodestra e non è convinto di dover essere lui a staccare la spina all'inizio del prossimo anno. Lo fece Veltroni con Prodi nel 2008, avrebbe detto Renzi ai suoi appunto fedelissimi, avete visto com'è finita? Non bene. E quindi Renzi non vuole ripetere questo errore. Non sarà lui, quello che capiamo, a staccare la spina al governo se diventerà segretario del PD, essendo uno degli azionisti di questo governo. Non crede nemmeno che lo farà il centrodestra, nonostante le scaramucce, quindi dice andiamo avanti e la corsa, la sua corsa, quindi si allunga. Dicevamo sulla stampa, a proposito del Datagate, NCA, una centrale a Roma, la Merkel spiata dal 2002. Obama al telefono con la cancelliera, non sapevo, li avrei fermati. Però leggiamo all'interno, viene ricordata una provocazione che è stata fatta a giugno a Berlino con la proiezione sull'ambasciata americana di certe immagini, ambasciata americana dalla quale veniva spiata la Merkel. Un grande laser, un fascio luminoso che si infrange sui muri all'ambasciata americana a Berlino con la scritta evocativa United Stasi of America. Era il 19 giugno, Obama stava parlando a pochi metri alla porta di Brandeburgo. L'agguato digitale fu pianificato dall'imprenditore Kim.com, fondatore di Megaupload, e dall'artista Oliver Bienkowski. Il Datagate era appena scoppiato da qualche giorno, adesso abbiamo scoperto che proprio da una stanza di quell'ambasciata, l'ambasciata americana a Berlino, a poche centinaia di metri dalla cancelleria federale, partivano le intercettazioni rivolte verso il cellulare della Merkel. Il numero da tenere sotto controllo era indicato con la dicitura GE Chancellor Merkel, Germania. Il cancelliere della Germania Angela Merkel, insomma, questi erano i luoghi dove avveniva il Datagate, a Roma, chissà anche dove altrove, e proprio nell'ambasciata americana a Berlino. Non c'era da cercare, andare molto lontani evidentemente, perché era il posto più scontato. Non ci dà notizie anche la prima pagina del Sole 24 Ore, notizie purtroppo non belle, anche se poi è tutto da vedere. Si tratta dei controlli del fisco sugli italiani, conti correnti, tutti i dati sotto il controllo del fisco. Entro il 31 ottobre le banche e gli altri operatori finanziari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria tutti i dati rilevati alla propria clientela. Conti correnti, dossier e titoli, carte di credito e non solo diventeranno trasparenti per il fisco italiano, che disporrà del database più completo al mondo. Oggi sul Sole 24 Ore c'è anche Rating 24, l'attuazione delle riforme. Potete dare un'occhiata al grado di attuazione delle riforme annunciate dai governi. Il governo Letta, per lui l'attuazione sale all'11%, per quanto riguarda il governo Monti, che si è chiuso, siamo al 43% di esecuzione delle riforme. Questo è un consueto modo con quale il Sole 24 Ore guarda alla politica, alle promesse della politica economica, ciò che viene fatto e ciò che non viene fatto. Sul Fatto Quotidiano troviamo, a proposito di politica, un'altra notizia. Letta nelle mani di Schifani, perché insieme al capogruppo del PDL a Palazzo Madama, 15 senatori sono pronti a voltare le spalle a Berlusconi, in aggiunta ai 24 che già, ricorderete, qualche tempo fa avevano firmato l'ultimo documento a favore del voto di fiducia contro la crisi di governo minacciata dal condannato, che sarebbe Berlusconi. Leggiamo all'interno cosa si sa di questa iniziativa di Schifani per tendere la mano a Letta e voltare le spalle a Berlusconi. Il peso di Schifani sarà decisivo per mettere in sicurezza il governo napolitano Letta. Il piano è partito alcuni giorni fa. In caso di spaccatura irreversibile tra Silvio e Angelino, Schifani avrebbe valutato persino la tentazione di un gruppo autonomo distinto dalle due fazioni in lotta tra di loro, cioè gli lealisti e invece gli scissionisti del PDL. Tutto è possibile. Vabbè, in ogni caso l'elenco è custodito dall'ex presidente del Senato e comprende, questi sono i nomi dei parlamentari, dei senatori che sono pronti a sostenere il governo Letta, e sono Donato Bruno, Simona Vicari, Giuseppe Esposito, Franco Cardiello, Massimo Cassano, Franco Carraro, Bruno Alicata, Antonio Dalì, Emilio Floris, Cosimo Sibilia, Salvatore Sciascia e Andrea Mandelli. Non so cosa, se vi dicono qualcosa questi nomi, abbiamo letti. L'importante è sapere che secondo il Fatto Quotidiano Schifani sta capeggiando un'ala, diciamo così, del PDL pronta a sostenere Letta con o senza scissione nel PDL. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Libero, che sempre a proposito di questi argomenti dice: condannati a stare insieme, una versione diversa. Solo il giudizio sul dopo Letta divide falchi e colombe del centrodestra. Tra poco troppo poco, scusate, per il titolo scelto a Belpietro, per una scissione che gli elettori non capiscono e che rischia di spalancare le porte alla sinistra e al suo carico di tasse. Non fate i pirla, questo è l'appello di Belpietro. Leggiamo anche, così, giusto per chiudere, una cosa leggera, il commento di Selvaggia Lucarelli su X Factor e sulle passioni femminili. Ho perso la testa per Mika, il gay che piace alle donne. E questo è un problema, perché se le donne cominciano a innamorarsi dei gay è un problema, perché forse si deve parlare di amicizia ma non di amore, perché non credo che sarebbe mai ricambiato. Va bene, ci fermiamo qua, traffico, e poi torniamo tra poco con la prima con le pagine culturali del Sole 24 Ore. Tra poco. Si può salvare l'Italia punendo l'evasione fiscale, tutti gli evasori fiscali, dai più piccoli ai più grandi, perché chi evade le tasse ruba ciascuno di noi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Veicoli commerciali Citroën. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati, restiamo come ogni domenica a quest'ora in edicola e vi rinnoviamo ancora una volta l'appello a non perdervi assolutamente quello che di più importante oggi c'è in edicola, almeno dal nostro punto di vista, ed è il domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, cucinato come sempre sapientemente dalle mani di Armando Massarenti. Buongiorno, ben ritrovato Armando. Buongiorno. Responsabile del domenicale, l'unico inserto culturale che non vi dice le cose che vi dicono già tutti gli altri, ma le cose di cui dovete veramente interessarvi, occuparvi, festival, appuntamenti, incontri, dibattiti rivolti ai professionisti sicuramente della cultura, professori, ricercatori, studenti, curatori, ma anche a tutti quelli che sono in cerca di risposte alle loro domande più importanti. Armando, oggi partiamo da una passeggiata nello spazio. Sì, è un viaggio stellare quello che noi proponiamo nella copertina del domenicale di questa settimana, con una recensione di Carlo Rovelli di un libro di cui diamo anche una piccola anticipazione, di Roberto Casati, ed è una, sono lezioni atipiche di astronomia. Il titolo del libro di Casati è Dov'è il sole di notte, e cosa ci dice questo libro? Ci dice qualche cosa che tutti quanti pensiamo magari di sapere e non sappiamo, cioè qual è questa danza a tre tra il sole, la terra e la luna, così come quando vediamo delle ellissi e ci chiediamo appunto qual è il reciproco rapporto di questi tre pianeti. Ma qui c'è un'idea veramente molto originale, a proposito di cose che non si trovano tanto facilmente. Cosa non si trova tanto facilmente? Proprio il modo di ragionare, in questo caso scientificamente. Qui Casati e Rovelli ci raccontano come si ragiona astronomicamente, come sono state possibili delle scoperte astronomiche che adesso noi diamo per scontate, che ci aiutano poi a leggere anche l'intera tutto il cielo e tutte le costellazioni, ma soprattutto questi tre elementi, questi tre corpi, il Sole, la Terra e la Luna, per capire come funzionavano. Ci si racconta qui molto bene di un sogno, il sogno di Keplero, che era un bellissimo libro appunto del grande astronomo copernicano, in cui l'elemento fondamentale è mettersi dal punto di vista non usuale, cioè dal punto di vista per esempio di uno che sta sulla Luna, che non è una cosa così banale e così semplice. Allora, se si fa questo esercizio, se lo si ripete, si incomincia a capire come funziona appunto il nostro cielo, e magari poi lo possiamo guardare con maggiore conoscenza e con la grande meraviglia con cui l'hanno sempre guardato gli esseri umani in tutta la storia dell'umanità. Quindi Carlo Rovelli, grande astrofisico di Marsiglia, Roberto Casati, anche lui è emigrato, sono tutti cervelli in fuga questi. Altro argomento di purtroppo, attualità, ma insomma. Invece altri cervelli più o meno in fuga sono gli storici italiani, e questo è il secondo argomento importante, e tra i tanti devo dire che di cui si compone il domenicale oggi, ed è un appello molto importante, un appello contro il reato di negazionismo, perché sapete bene che c'è in discussione una legge che vorrebbe vietare appunto per legge la possibilità di essere dei negazionisti. Ma sostengono innanzitutto il nostro collaboratore Sergio Luzzatto insieme a Marcello Flores, insieme a tanti altri, tra cui Carlo Ginzburg, che firmano questo appello. l'idea che fare una legge è controproducente, proprio se si vuole appunto evitare che il negazionismo prenda piede. Una posizione, cioè il negare... se vogliamo, anticonformista, ma è importante. Perché... non è solo anticonformista, sì. È qualcosa che va al cuore di che cosa deve essere la cultura, perché se noi deleghiamo quello che deve essere il compito legge. Della cultura a una legge, a un magistrato, a qualcuno di estraneo alla costruzione stessa della cultura, quindi al convincimento reale che le cose sono state... diventa una resa per il pensiero. Sono andate, esatto, diventa una resa del pensiero. E questo è molto in linea con la nostra politica culturale di lungo periodo. Noi avevamo fatto non a caso il manifesto per la cultura un anno e mezzo fa, che voleva dire proprio questo: diamo centralità alla cultura. Se noi deleghiamo alle leggi, ai parlamenti, ai magistrati quello che deve essere la cultura, la libertà della ricerca va a farsi benedire. Però vabbè, cambiamo argomento, andiamo verso la letteratura, sì. Che forse è una cosa che ha più a che fare con l'intrattenimento, un intrattenimento ovviamente sempre di alto livello. E allora anche qui ci sono diciamo almeno tre cose che vorrei segnalare. Uno, una bellissima raccolta poetica di Alba Donati, per chi ama la poesia. Per chi ama invece la prosa, due novità molto importanti. Una è la nuova traduzione di un grande classico della letteratura americana, Furore di Steinbeck, e qui c'è Mario Andreose, che è l'editor della casa editrice Bompiani, che lo ha riproposto, e il protagonista Tom Joad qui ha una nuova voce completamente rivista, rinnovata. È un'operazione che diciamo che è dell'importanza simile a quella di quando Renata Colorni ha ritradotto la montagna magica, che tutti eravamo abituati a chiamare la montagna incantata, certo. E che invece adesso ormai è rientrata nell'uso. Ma l'altra cosa è ancora più eclatante. Noi abbiamo una e abbiamo qui Luigi Reitani, che è stato il curatore di questa operazione editoriale. Per Marsilio esce la prima stesura di uno dei grandi classici del Novecento tedesco, in questo caso in lingua tedesca, cioè Robert Musil, L'uomo senza qualità. E si intitola Redenzione, per la prima volta viene pubblicato in volume l'intero il manoscritto, e ha delle grosse novità dal punto di vista stilistico e dal punto di vista anche proprio della, di come poi la creazione del romanzo vero e proprio è stata messa in atto. Quindi io direi allora, possiamo che possiamo salutarlo, il professor Reitani che è qui con noi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Luigi Reitani, Armando, se vuoi anche introdurlo e dire due parole su di lui, e poi insomma ci parli dell'importanza di questo scrittore e anche di questo inedito che andate a pubblicare. Armando, se vuoi... Beh, Luigi Reitani non ha bisogno di grandi presentazioni, ma nel senso che è uno dei più grandi germanisti italiani, ha curato volumi importantissimi, ha curato Meridiani, cioè dei più grandi classici appunto della letteratura tedesca, e per Marsilio appunto ha fatto questa operazione editoriale che è di grandissima originalità, ma soprattutto fa scoprire cose nuove su un grande del Novecento che io amo moltissimo, perché tra l'altro è un letterato di quelli che amano la scienza, di quelli che era partito con una tesi tra l'altro su Ernest Mach e sulla storia della fisica, quindi è un raffinatissimo. Ha scritto un altro romanzo che era di Turbamenti del giovane Torles, che parla di un matematico, insomma un autore importantissimo. Reitani però è lui il vero esperto, lasciamo parlare ecco, lui. Soprattutto ci dica, perché la cosa divertente e bella del pezzo che pubblichiamo suo, oltre che dello stralcio di Redenzione, che è uno stralcio anche molto violento se vogliamo, si parla quasi di uno stupro tra l'intellettuale e il fisico del personaggio Anders con Diotima, che poi è uno dei personaggi principali dell'Uomo senza qualità, ma insomma c'è una certa differenza di stile, no? Tra questa prima stesura, anzi una notevole differenza di stile tra questa prima stesura e poi l'ironia che viene fuori in maniera molto forte nell'Uomo senza qualità. Professore. Beh, sì, ci sono moltissime differenze, ci sono differenze nel plot, quindi proprio nella costruzione narrativa, ci sono passi che il lettore non troverà nelle 2000 pagine che noi conosciamo dell'Uomo in qualità, anche nell'edizione dei Meridiani, che presenta in appendice tutti gli scritti avanti fino agli anni 20, ma troviamo delle differenze anche nei personaggi, nella costruzione dei personaggi, che non riguardano solo i nomi, ma anche proprio la psicologia, la loro caratterizzazione, e soprattutto non troviamo quella celebre ironia musiliana, ma invece troviamo un sarcasmo anche molto aspro, e troviamo anche scene assolutamente crude, di grandissima violenza. Il primo capitolo è un sogno in cui si narra di un uomo che ha un appuntamento galante, mozza con un morso la lingua di una donna, e nell'ultimo capitolo invece Anders, che poi diventerà Ulrich nell'Uomo senza qualità, addirittura violenta Diotima, quella che è la intellettuale, l'anima bella del gran mondo viennese. Quindi basterebbe questo per capire qual era il Musil dell'immediato dopoguerra. E questo era il professor Luigi Reitani a proposito dell'inedito di Musil pubblicato in stralcio oggi sul Domenicale in edicola. Io lo ringrazio, professor Reitani, grazie per essere stato con noi. Se volete informarvi e conoscere questo ed altro di quello che viene pubblicato oggi dal Domenicale, andate a caccia dell'inserto culturale del Sole 24 Ore in edicola, Armando Massarelli. E se siete anche a caccia di notizie sì. Culturali, c'è anche una notevole, noi le chiamiamo belle scoperte, una specie di rubrica, è stata trovata la tomba niente meno che di Adone negli scavi di un santuario greco di Gravisca, che è l'antico porto di Tarquinia. È stato trovato questo incredibile sito archeologico, e troverete l'articolo di Mario Torelli, che è uno degli archeologi che lo hanno trovato. Chiudiamo così anche con questa ulteriore buona notizia. Grazie Armando Massaretti. Grazie. Ci troviamo domenica prossima con il Domenicale. Per quanto riguarda invece voi, cari ascoltatori, dopo il giornale radio ci ritroviamo con Si può fare. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo insieme, ben ritrovati. Tra poco potrete anche intervenire in diretta al numero verde 800 24 0024. Vi ricordo anche i nostri contatti, staremo insieme sino alle 11 con un po' di approfondimenti di attualità su Facebook, Si può fare Radio 24, invece su Twitter il nostro account è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Allora, riprendiamo anche qua da una buona notizia. Vai. And now the good news. Allora, sono di ieri i dati, avete sentito anche poco fa nel giornale radio dell'Istat sulla disoccupazione: 6 milioni tra disoccupati e quelli che hanno perso anche solo la motivazione per andare a cercarsi un lavoro. In settimana si è risolto in parte almeno il caso Indesit, una grande azienda che aveva annunciato un sacco di esuberi, che si sono ridotti da 540 a 71 esuberi. Questo sarebbe l'accordo che è stato raggiunto al Ministero dello Sviluppo tra, insomma, i vertici dell'azienda e i sindacati, che ancora un po' scalpitano perché vorrebbero ridurre questi esuberi a zero. Però da 540 a 71 è sempre meglio di niente. Ci sono 78 milioni di investimenti previsti in Italia nei tre siti italiani di Fabriano, Comunanza e Caserta. Vai! E allora, i contatti li abbiamo ricordati. Vi ricordo anche, adesso tra poco ci fermiamo per il traffico e torniamo subito dopo, vi ricordo però anche sin da subito che potete intervenire oggi per vincere due biglietti, ogni ascoltatore, tre ascoltatori, quindi sei biglietti in totale, per la mostra di Andy Warhol, che si è aperta qualche giorno fa a Milano, il pioniere del pop art americana. Tutte le opere della Brent Foundation, tante belle opere in mostra a Palazzo Re di Andy Warhol, chiamando e rispondendo, anzi dando la definizione più giusta, più corretta di una parola che ha a che fare questa settimana con l'attualità. Abbiamo scelto di chiedervi la definizione di coraggio, perché è stata la settimana in cui si è parlato della commissione antimafia. E per combattere la mafia ci vuole coraggio. È stata la settimana dove purtroppo è morto il giovane ragazzo di Lecco in Inghilterra, e per andare all'estero a cercare fortuna ci vuole coraggio. Allora noi abbiamo deciso di chiedervi questa cosa qua, la definizione di coraggio, la più giusta, la più bella, a giudizio insindacabile della redazione, cioè nostro. Gli ascoltatori che ci chiameranno per dirci questo vinceranno due biglietti per la mostra di Andy Warhol. Adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. E adesso a commentare un po' i fatti, soprattutto politici, di questa settimana, abbiamo chiamato il direttore di Europa, Stefano Menichini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ben svegliato insieme a noi. Allora, cominciamo subito, Stefano. Parlando un po' di... cominciamo dalle cose più recenti, no? Questa accelerazione di Berlusconi su Forza Italia, e di nuovo torna il nome di Marina. Non ci sono dichiarazioni, voci ufficiali, perché non ci sono, non c'è l'audio di questa frase di Berlusconi, che sarebbe stata pronunciata, credo, la sera del vertice col partito, è stata riferita poi successivamente. Però insomma, prima di tutto ti chiedo se questa volta è verosimile questa riproposizione di Marina Berlusconi, leader del PDL o di quello di Forza Italia o di quello che sarà, ricordando che quest'estate lei aveva smentito quando si era tornati di nuovo a fare il suo nome. Che ne pensi, Stefano? Ma che io sto ancora alla sua smentita e anche a una certa razionalità che vorrebbe, io dico soprattutto nell'interesse del gruppo Mediaset Fininvest, che vorrebbe che cessasse questa implicazione e questo conflitto di interessi permanente che ha già guastato negli ultimi 20 anni non solo la politica italiana e la vita pubblica, ma anche per certi aspetti ha fatto del danno agli stessi gruppi di Berlusconi, forse non dal punto di vista diciamo così strettamente economico, però secondo me dal punto di vista industriale sì. Insomma, Mediaset diciamo sotto tanti aspetti è rimasta molto indietro rispetto a alcuni concorrenti, soprattutto internazionali. Adesso non voglio spostare il discorso dalla politica ad altro, però se si parla di colei che Silvio Berlusconi aveva incaricato di essere la sua erede, sì, come leader del gruppo, dobbiamo cominciare a considerarla soprattutto da questo punto di vista. Dopodiché c'è il versante politico, e il versante politico per quanto riguarda Marina Berlusconi, che cosa si può dire? Che con tutte le capacità che può avere sicuramente non potrà replicare le virtù carismatiche di suo padre, e che quindi è un investimento soltanto sul cognome, ma è un investimento più sulla carta, tu dici, che in effetti è stato già sottolineato. Insomma, è tutto da verificare se lei sarà o sarebbe in grado di avere la capacità poi di fare riunioni politiche, di tenere dei comizi e di avere quel versante pubblico che fino ad ora lei, anche come capo di una grande azienda, non ha mai avuto. Però c'è un precedente, no? Che è quello di Marine Le Pen in Francia, che ha preso l'eredità del padre, Jean-Marie Le Pen, che adesso credo che sia europarlamentare lui. E tra l'altro c'è anche una notizia curiosa di questa settimana che la riguarda, la voglio dare giusto perché stiamo facendo un po' di riepilogo della settimana. È stata beccata anche lei con rimborsi elettorali, 22.000 euro spesi in pasticcini, lei che si erige normalmente anche a fustigatrice, no? Come certi partiti, un po' come Grillo in Italia, sulle spese folli della politica, la casta, uscire dall'euro, ritornare alla moralità in politica, l'hanno beccata che ha chiesto il rimborso per delle cose elettorali che però appunto sono in parte anche non giustificabili, per esempio questi 22.000 euro per i pasticcini. A parte il parallelismo, per restare in Francia però, Stefano, c'è un'altra notizia prima di continuare poi con la politica italiana, che è questa tassa importante del 75% sugli stipendi oltre 1 milione di euro che i calciatori francesi li ha fatti infuriare, soprattutto le società di calcio, perché non vogliono pagare questa tassa, che invece è un cavallo di battaglia di Hollande, il 75%. Oggi c'è un commento di Mughini sul Libero che dice: comunque è una rapina. Che ne pensi tu di questa cosa in Francia che sta facendo discutere, perché c'è uno sciopero dei calciatori previsto tra una settimana o due, non ricordo? Che a rischio dell'impopolarità dico che mi sembra una cifra obiettivamente esorbitante, un'aliquota al di sopra del giusto. Poi si potrebbe casomai applicare dei criteri di salary cap più rigorosi, sì, di quelli che non vigono attualmente all'interno dell'UEFA, però diciamo, se ci sono società che ritengono di poter pagare i propri calciatori cifre altissime, secondo me, diciamo, anche a un carico che sicuramente deve essere più alto fiscale nei loro confronti, o oltre una certa soglia mi sembra che non si possa andare. 75% mi sembra abbastanza esorbitante, e si rischia seriamente, diciamo così, di prendere misure veramente demagogiche spinte. Anche se insomma, l'opinione pubblica francese, come dicevi tu, la tua opinione rischia di essere impopolare, perché invece l'opinione pubblica, manco a farla apposta, c'è questa vena, diciamo, punitiva anche nei confronti di questi VIP super miliardari, eccetera, eccetera. Però è vero che. Non ho nessuna simpatia per i super miliardari in generale. Però è vero che il 75% è tantissimo, cioè forse invece di scatenare queste ire si poteva fare stabilire una soglia minore, più realistica. Però devo dire che la Francia, da questo punto di vista, forse sarai d'accordo su questo, almeno ha il merito di porre delle questioni, come per esempio anche sulla questione dei diritti degli omosessuali, è andata al di là di quello che è il dibattito, per esempio anche in Italia, sui diritti delle coppie, cioè la possibilità di sposarsi, dando anche la possibilità di adottare figli, scatenando anche in questo caso reazioni. Però in Francia almeno si pongono dei punti, no, nel dibattito. In Italia invece siamo sempre forse un po' in mezzo al guado e non si riesce mai a, per esempio quando si parla di patrimoniale, scoppia a fine mondo e non si fa mai. Ma adesso non vorrei sembrare politicista, però questo è anche figlio di un sistema politico e di un sistema elettorale che, per carità, non è che danno sempre ai francesi i migliori governanti possibili, però gli danno sempre un governo e una maggioranza che poi magari possono, come abbiamo visto, non coincidere tra maggioranza che ha eletto il Presidente della Repubblica e maggioranza che ha eletto l'Assemblea Legislativa. Però il sistema trova una sua stabilità, e quando il sistema trova una sua stabilità le parti politiche, le singole parti politiche possono arrischiare provvedimenti, misure, e quindi aprire dibattiti pubblici anche molto forti, anche estreme, non necessariamente giuste, però insomma ci possono provare, no? Che è un po' quello che manca all'Italia, manca in particolare all'Italia in questo momento, in cui la maggioranza di larghe intese, che teoricamente è fortissima in Parlamento e che quindi teoricamente potrebbe anch'essa permettersi di tentare su misure più coraggiose, più estreme, più nitide, invece paradossalmente è politicamente più debole e quindi più ferma, più prudente, fa passi veramente di pochi centimetri, e così però è stato anche, diciamo, in passato. Abbiamo un sistema politico che in qualche maniera consiglia sempre a chi vince le elezioni, che quasi sempre le vince per margini parlamentari piccoli, o comunque li porta dentro un sistema istituzionale per tanti aspetti bloccato e sottoposto a veti incrociati. Come è capitato per esempio a Berlusconi, quando le elezioni le ha vinte per un margine più ampio, consiglia sempre a chi vince, a chi va al governo, prudenza, mai un rischio, mai un tentativo oltre diciamo così, i limiti del consentito, e questo sicuramente rende l'Italia un paese più fermo degli altri. Senti, torniamo alla Leopolda, no? Questa partenza di Renzi per la corsa, per le primarie che ci saranno l'8 dicembre, eccetera, eccetera. Sono pieni giornali di commenti, di valutazioni, abbiamo sentito le voci di Renzi. Come vedi il suo cammino nei prossimi mesi, dando, diciamo, più o meno per scontato che possa vincere queste primarie? Perché qualcuno scrive già oggi, attenzione, perché ci sono i signori delle tessere del partito che sono già pronti a passare all'incasso. Si sono visti Epifani, il ministro Franceschini, cioè persone di peso all'interno del Partito Democratico che non necessariamente erano renziani, potrebbero diventarlo adesso, quando poi sarà segretario lo saranno per forza, ma che poi chiederanno in qualche modo, come è già successo anche in passato ai segretari del PD, no? Di allinearsi, di stare in riga. Sarà un Renzi più moderato, più ingabbiato, oppure sarà un Renzi che riuscirà davvero a cambiare il partito, ad aprirlo come lui dice di voler fare? Lo chiedo a te, che sei il direttore di Europa, uno dei due quotidiani tra l'altro che sono del PD, insomma, Stefano. Non sono strettamente del PD, sono dell'area del PD che nascono da quell'area. Sì. No, per la questione, sono proprietà. Ma guarda, io sono stato alla Leopolda, non ho tanta paura delle personalità, anche di quelle che hai citato, di quelli che, come si dice, salgono sul carro o, come preferisce dire Renzi, lo dovranno spingere. Io oggi ho scritto ieri sera e oggi online su europaquotidiano.it un'osservazione che riguarda sì le tessere, cioè contemporaneamente tu assisti a Firenze a un evento che è molto aperto, molto libero, molto fresco, molto rapido, molto leggero anche se vuoi, che non si sa quanto definisca linea politica, ma in qualche maniera fa sentire chi ci va molto partecipe, e anche poco percettibile il confine del Partito Democratico, cioè attrae anche chi non si sente strettamente, chi non è iscritto, chi non si sente militante, e questa è la grande capacità e la forza e la freschezza di Renzi, è il motivo per cui piace anche fuori dal PD. E contemporaneamente si stanno svolgendo tanti congressi provinciali e di circolo in giro per l'Italia, che sono invece hanno caratteristiche totalmente opposte, sono molto più difficili, più lenti, più respingenti, sono presiedute da logiche di corrente, di alleanze in ogni posto diverse a seconda delle situazioni locali, anche delle convenienze locali. E fra un mese e mezzo probabilmente Renzi si troverà a essere il segretario di tutti e due questi PD, cioè del tra virgolette suo PD, cioè di quello appunto della Leopolda, di quello agile, aperto, orizzontale, e di quello invece dei congressi, che è invece tutta quanta un'altra cosa. Io qui vedo uno dei suoi problemi principali, poi ci sono tanti problemi legati al contesto politico, alla crisi politica, ai rapporti con i partiti, col governo Letta, però per quanto riguarda Renzi, segretario del PD, io vedo la grande sfida nel fatto che lui deve ricomporre questa schizofrenia fra un PD possibile, virtuale, ipotetico, che è quello che ha in mente lui, anche se non è che ce l'abbia mai raccontato come potrebbe materialmente, concretamente funzionare questo Partito Democratico nuovo, diverso, rifondato, e quello reale, quello che esiste, quello che sta lavorando appunto in questi congressi, dove ci sono bravissime persone altrettanto brave di quelle che vanno alle volte, anzi molto spesso sono le stesse persone proprio in carne e ossa, e che però dove vigono delle regole novecentesche per certi aspetti, e che Renzi non riesce a presidiare, tant'è vero che non sappiamo neanche se in questo tipo di congressi le sue proposte a livello locale passeranno, vinceranno. In molti luoghi no, non succederà. Insomma, avremo un PD schizofrenico, che è meglio del PD che avevamo prima, che era un PD bloccato, ingrigito e sostanzialmente inutile quando non dannoso, come è stato nella vicenda dei 101. Però non sappiamo che cosa sarà, è un'incertezza che credo non sarà sciolta neanche dal molto atteso discorso di Renzi di oggi alla Leopolda. Diciamo che mi piace questa schizofrenia, che potrebbe essere una dialettica positiva o potrebbe anche portare all'impazzimento della maionese, chissà, staremo a vedere. Stefano, ti voglio chiedere anche un'altra cosa, se vuoi ancora 2 minuti, perché insomma del Datagate non possiamo non parlarne, escono fuori notizie ogni momento. Adesso c'era una sede anche a Roma che controllava l'ambasciata americana a Berlino, sede delle intercettazioni nei confronti della Merkel. Questi sono solo dettagli, insomma, però la sensazione è che molti di noi considerino tutto sommato normale che ci sia questo grande orecchio che ci spia per questioni legate alla sicurezza, al terrorismo. Veniamo da 12 anni dopo l'11 settembre di bombardamenti in tema di sicurezza, no? 11 settembre del 2001, e siamo tutti un po' abituati a questo. Però insomma, chi ha in mano queste informazioni, queste notizie, ha in mano la libertà di tutti. È un tema grossissimo, no? Bisogna ripensare tecnologie, regole, non lo so, regolamenti. Tu che ne pensi? Sì, confesso che anche io, quando è scoppiata questa vicenda, a un certo punto ho avuto un riflesso come se l'avessi sempre saputo che le cose funzionavano così, soprattutto fra i potenti della Terra e anche fra gli alleati. E poi insomma, c'è anche da considerare che il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti non è stato sempre un rapporto paritario, e obiettivamente gli Stati Uniti molte volte sono dovuti intervenire, a parte, diciamo, sul piano storico, ma anche su altri piani, diciamo in supplenza nei confronti di fragilità e di debolezze dell'Europa, e questo forse ai loro occhi giustifica una certa diffidenza nei nostri confronti. Ma detto questo, sì, ci sono tante cose da ripensare. C'è forse anche da ripensare a un certo dibattito italiano, che forse ricorderai, quando sulle intercettazioni c'erano quelli che sostenevano che ormai bisogna sapere tutto. Sì. C'erano quelli che andavano in piazza con delle cartelli dove c'era scritto intercettateci tutti, e allora era perché si era proposto a livello parlamentare e di governo il tema di limitare la pubblicazione di conversazioni intercettate dalla magistratura, o almeno dare una regola e limitare anche gli ambiti in cui si può diciamo intrufolarsi nella vita e nella privacy delle persone. Ecco, adesso la situazione ci pare capovolta, no? E ci sembra orribile quello che hanno fatto gli americani, e non credo che nessuno andrebbe in giro più con i cartelli in queste ore a dire intercettateci tutti. Dovremmo trovare un equilibrio, dovremmo non sbilanciarci sempre tra lo scandalo estremo per una cosa e lo scandalo estremo per il suo opposto, e capire che la privacy è diventato, cosa che non era mai stata in passato, con l'avvento di queste tecnologie potentissime, è diventato un valore fondante, un valore primario, e che quindi va tutelata a tutti i livelli, va tutelata anche per i potenti, e quindi forse riusciranno a livello internazionale a trovare diciamo un nuovo equilibrio dell'ascolto. Una volta c'era l'equilibrio del terrore, un nuovo equilibrio dell'ascolto, perché poi per la sicurezza nazionale, non solo quella degli americani ma anche per la nostra, certe forme di sorveglianza di quello che corre nella rete devono comunque, secondo me, essere mantenute, però certo dentro dei limiti e sotto il controllo della politica. Quindi un equilibrio dell'ascolto a livello internazionale e a livello nostro, del nostro dibattito, della nostra consapevolezza, della nostra sensibilità, insomma renderci conto che abbiamo diritto di difenderci nei confronti di chi vuole sapere qualcosa di noi, e che quindi la prossima volta, sperabilmente in un contesto politico che lo consentirà, quando al centro di tutto non ci saranno sempre Berlusconi, i suoi processi e la curiosità nei confronti della sua vita privata, quando si riparlerà delle intercettazioni telefoniche, pubblicazione, diritto di pubblicazione degli affari di tutti noi, ci sarà un pochino più di equilibrio, un pochino più di rispetto. Benissimo, grazie a te Stefano Menichini, buongiorno, buona domenica. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, il direttore di Europa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora abbiamo i primi ascoltatori che ci chiamano, abbiamo Luigi da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, lei su cosa voleva intervenire? Ma sento parlare sempre di Renzi, sento parlare anche lui, e mi meraviglio che quest'uomo così intelligente, così brillante, con idee chiare, continua a stare lì attaccato a questa armata brancaleone che è il PD, e non si fa, cioè, che questa armata brancaleone, che è vero che lo è sicuramente, però cosa dovrebbe fare Renzi? Lui viene da quel partito e di quel partito credo che lo usi anche per arrivare poi al governo, insomma. Ma è un'armata, signore, brancaleone, dovrebbe, però gli può essere utile per fare la scalata. Lui dovrebbe distinguersi da questi qui, i quali non fanno niente, non propongono niente, non propongono di tagliare province, no? Sono attaccati, sì, ancora a grandi opere, finanziamento dei partiti. Lui dovrebbe apertamente distinguersi da, cioè, questi, secondo qua, lei dovrebbe fare un altro partito. Luigi, lei propone a Renzi di fare direttamente qualcos'altro, direttamente un altro partito. Proporsi da solo. Lui prenderebbe 20 milioni di voti, prenderebbe, sì, tutti i dissidenti del PD, tutti i giovani, tutti quelli che non hanno votato finora, dissidenti del 5 Stelle. Lei lo voterebbe Renzi? Milioni, eh? Lei, Luigi, lo voterebbe Renzi? Ma certo che lo voterei. Ma lei andrà alle primarie a votare? Aperto, Luigi, più, eh? Ascolti un attimo. Lei andrà alle primarie dell'8 dicembre a votare o no? Ma io in genere alle primarie non ci sono andato. Ci sono andato o non ci sono andato? Non ci sono andato, ma non, vabbè, non insomma, mi lei... sono quelle... Grazie Luigi, lei è quel classico elettore che non fa parte del PD, non andrà a votare alle primarie e vorrebbe che Renzi corresse, diciamo, più libero da quel partito, perché magari potrebbe prendere tanti voti come anche il suo. Forse però perderebbe quelli del PD se non fosse il leader del PD. E questo è un bilancio che Renzi dovrà fare. Erminia da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, lei su cosa voleva intervenire? Volevo dare la definizione di coraggio. Ah, benissimo, iniziamo così, diamo la possibilità di vincere, sì, attraverso questa risposta, due biglietti ciascuno della mostra di Andy Warhol. Vi chiediamo la definizione, sì, più giusta, più bella di coraggio. Poi al nostro giudizio saranno estratti tre ascoltatori. Erminia, cominciamo, vada. Allora, secondo me il coraggio è lasciare tutte le proprie certezze, le proprie sicurezze, rischiare per qualcosa di incerto che probabilmente potrebbe non avverarsi, però è un sogno e dunque giocarsi tutto perché ne vale la pena. Grazie Erminia, ce lo siamo segnati e tra poco ne sentiremo altre di telefonate su questo e su altri argomenti. Tu diventi grande e ti fai forte, e quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta, è la primavera che bussa alla tua porta e piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa, e piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove. Allora, Jovanotti, vabbè, perché vogliamo parlare del maltempo, di quello che è successo già ancora ieri, insomma, sono state ritrovate purtroppo due vittime in Liguria, un morto c'è stato in Toscana all'inizio della settimana, tra lunedì e martedì, fortissime piogge, purtroppo ormai siamo abituati, ogni autunno, ogni inverno, quando ricomincia a piovere forte, all'improvviso succedono disastri. Bisognerà prima o poi uscire dalla logica dell'emergenza per entrare in una logica, non lo so, di qualcos'altro, di una ristrutturazione del suolo. Questo sarebbe anche un piano economico, l'unico forse che avrebbe senso fare per qualunque governo italiano, cioè investire miliardi di euro pubblici per rimettere a posto, dal punto di vista del dissesto idrogeologico, il suolo italiano. Si risparmierebbero tanti soldi di emergenza, si darebbero a lavorare a migliaia tra operai, geologi, architetti, ingegneri, e si potrebbe rilanciare anche lo sviluppo dell'Italia in condizioni di sicurezza. Però a noi ci ha colpito una notizia dal Festival della Scienza che è in corso in questi giorni. Una notizia viene da alcuni ricercatori della Scuola Sant'Anna di Pisa che hanno scoperto una cosa interessante che riguarda le piante sott'acqua. Noi salutiamo il rettore della Scuola Sant'Anna, Pier Domenico Perata. Buongiorno. Buongiorno. La vostra scoperta, adesso lei ci spiega, insomma, scoperta, è stata la vostra ricerca che vanno avanti da tempo, pubblicate su Nature, che è, mi confermerà, una rivista forse la più autorevole. Esatto, probabilmente la più prestigiosa al mondo. Ha a che fare con questo, cioè non tanto con quello che dicevamo prima, cioè insomma sul fatto di mettere mano al dissesto idrogeologico, ma l'altro danno che ci portiamo dietro ogni volta che ci sono le alluvioni è quello all'agricoltura, perché le piante sott'acqua muoiono. Voi avete iniziato a fare una scoperta, che cos'è questa scoperta? È una scoperta che ci ha consentito di capire, dopo 30 anni di lavoro, perché lei faceva riferimento, sarebbe ora di mettere mano a un piano per il dissesto idrogeologico. Ricordiamoci che quando si inizia a fare una cosa poi ci vuole tempo, quindi anche come in questo caso, anche nel nostro caso, ci sono voluti 30 anni di ricerca per arrivare a questo risultato. È un risultato che ci dice che le piante hanno un meccanismo molecolare specifico per comprendere quando sono sott'acqua. La prima cosa che una pianta deve fare per poter reagire alla condizione di stress è capire che c'è lo stress, e questo meccanismo molecolare dice alla pianta che la pianta si trova sott'acqua, e tramite questo meccanismo la pianta attiva dei meccanismi di resistenza che le considerano così, consentono di resistere per alcuni giorni. che è sufficiente di norma a consentire la ripresa della crescita quando poi l'acqua va via. Ecco, perché insomma lei in sostanza ci sta dicendo che quello che avete voi scoperto, che c'è un principio attivo, io faccio per semplificare, insomma, poi le chiedo di andare avanti su questa spiegazione, che verrà presentata tra l'altro in questi giorni proprio al Festival della Scienza, è il principio di rimanere vive anche sott'acqua, esatto. Il che consentirebbe, se questo principio lo rafforziamo, lo sviluppiamo nelle piante, di avere delle coltivazioni che non muoiono ogni volta che c'è un'alluvione, cioè l'alluvione possiamo limitarla, però non possiamo limitarla, però possiamo fare in modo che le piante vivano. Sarebbe per l'agricoltura una cosa fantastica. Quanto siamo vicini o lontani a poter sviluppare questa cosa, applicarla? Sì. Nel caso del riso l'applicazione è vicinissima. Io sono stato recentemente nelle Filippine e esistono già nuove varietà di riso che hanno la capacità di tollerare settimane di sommersione. Noi possiamo pensare che il riso sia già naturalmente resistente alla sommersione, perché lo vediamo anche nelle nostre risaie, vive sott'acqua. In realtà il riso sopporta una parziale sommersione, cioè una parte della pianta è sempre fuori dall'acqua. In quel caso il riso se la cava bene, perché riesce a trasportare ossigeno, perché la sommersione causa danni perché la pianta non può respirare, non è molto diverso dalla situazione di noi sott'acqua. Affoghiamo perché non riusciamo a respirare, ma la pianta di riso normalmente tiene le foglie fuori dall'acqua e grazie a questo riesce a respirare. Ma se la sommersione è di alcuni metri, e questo avviene soprattutto nei paesi del sud-est asiatico, anche la pianta del riso muore. Queste nuove varietà hanno la capacità di entrare in una specie di letargo, cioè rallentano il metabolismo, entrano in quiescenza e in questo modo risparmiano energia e riescono ad avere ancora la capacità di crescere quando poi il livello dell'acqua si abbassa. Quindi è un meccanismo di letargo, lo comparerei. Sì. Insomma, però le altre specie non hanno questo meccanismo, quindi il mais, il frumento, i pomodori, la soia, quindi tutte piante che noi conosciamo non hanno questo meccanismo di adattamento. Ma hanno le basi per averlo. Quindi questo principio che voi avete scoperto e che andrebbe appunto rafforzato. Ha detto bene lei, va ottimizzato, va compreso a fondo per poi poterlo migliorare e far sì che anche le piante non adattate ad ambienti umidi riescano a sopportare queste 2, 3, 4 giornate di pioggia intensa che sono diventate, ha detto bene lei, la norma, purtroppo la norma. Senta, ma a questo proposito, insomma, in attesa poi di avere altre notizie belle come quelle che ci state dando voi da questo punto di vista con le vostre ricerche al Sant'Anna di Pisa, io le vorrei chiedere, ma voi che appunto siete in prima linea su questo versante, avete notizie che ci sia un team di studio, che ci siano norme nella legge di stabilità economiche per favorire gruppi di ricerca su questo, per intervenire sul dissesto idrogeologico in Italia? Cioè ogni volta se ne parla, si muove qualcosa, poi si ritorna nell'ordinario e si ripassa a gestire l'emergenza. Voi siete pronti a entrare, non so, in una squadra, in un team? Noi siamo certamente pronti, non sappiamo se è pronto il paese. E questa è la domanda che ci facciamo sempre di fronte agli annunci della politica su una maggiore attenzione alla ricerca, e devo dire che ultimamente un accenno di maggiore attenzione al mondo dell'università lo abbiamo osservato, ma bisogna fare di più. Bisogna fare di più anche perché il nostro paese è afflitto da una mania di localismo, e quindi se si fa qualcosa per l'agricoltura si pensa solo alla nostra agricoltura e ci dimentichiamo dell'agricoltura dei paesi più poveri, per poi piangere quando, o disperarci, anche in alcuni casi a ragione, quando assistiamo al dramma dell'immigrazione. Chi sbarca a Lampedusa fugge dalla fame oltre che dalla guerra, e fugge dalla fame perché ha un sistema agricolo arretrato, inadeguato, insoddisfacente. Quindi fare ricerca su questo, lei dice, sarebbe anche una polizza assicurativa. Occorre non solo dare attenzione all'attività di ricerca rivolta ai nostri problemi locali, ma ricordarci che facciamo parte di un mondo dove l'agricoltura è ancora molto importante. Certo. Grazie mille per essere stato con noi, al rettore del Sant'Anna di Pisa, Pier Domenico Perata. Non so se lei è già intervenuto al Festival della Scienza a presentare questa cosa dal 23 oggi proprio. Perfetto, quindi se siete interessati a Genova, il festival che va avanti fino al 3 novembre. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. E a voi buongiorno. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E a quest'ora della mattinata chi ci raggiunge, cari ascoltatori? Chi ci raggiunge? Carlo Gabardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai sentito le piante che possono vivere sott'acqua? Assolutamente sì. Tu, tra l'altro, sei... vivo sott'acqua, come si sa. Sì. No, visto oggi che... è anche facile arrivare presto in radio, no? Basta... Io non ho spostato l'ora, è facilissimo. Infatti sono arrivato con un'ora d'anticipo oggi, visto che hanno rimesso l'ora solare. Chissà cosa succederà nel prossimo weekend, non me lo voglio domandare. Esatto. Tu sei sempre quello che su Twitter parla della piantina di basilico, o mi ricordo male? È vero, ci ho parlato tanto di piante di basilico perché l'anno scorso uccisi una pianta di basilico. Quest'anno un po' meno. Diciamo po' meno. Che ho twittato di più sul Datagate ultimamente, dicendo che questa nuova splendida tariffa che hanno fatto. Esiste una nuova tariffa che si chiama Datagate, e praticamente tu chiami e parli con gli Stati Uniti senza nemmeno digitare il numero di telefono. E se dici Allah, ti richiamano loro. Ai ai ai. È così che funziona. E questo, era il tweet di Gabardini su Datagate. Esatto, sì, poi ho twittato altre cose molto sul Datagate. Però noi abbiamo anche... Ne abbiamo già parlato tanto, perché ti ho ascoltato. Abbiamo anche un po' di attesa però sulle tue notizie. Ah certo, notizie. Notizie dal mondo, dall'Italia e dal mondo. Infatti iniziamo con una notizia che viene dalla Danimarca. Robert il pigro, disoccupato e fiero di esserlo. Da 12 anni non lavora e se ne vanta. Viene chiamato il pigro da quando ha partecipato a un dibattito in televisione dove ha detto che preferisce vivere sulle spalle dello Stato sociale. Ora, bravo, là... vorrei vedere. Ma esatto, di là della... affermazione che è molto antipatica, se vogliamo, sì, di per sé. Sì. Però questa cosa ha scatenato un feroce dibattito in Danimarca, perché diciamo il capo del governo, la socialdemocratica Helle Thorning-Schmidt, ha dovuto reagire dopo questo elogio della dipendenza, diciamo, dello Stato. Ma la cosa abbastanza interessante è come risponde lui, perché vabbè, in Danimarca ovviamente c'è uno Stato sociale per cui se tu non lavori ti danno comunque l'80% dello stipendio. Ma la sua risposta... Ma di quale stipendio? Se uno non lavora... Dello stipendio precedente, perché lui in realtà in questi 12 anni non ha lavorato, ma ha fatto due piccolissimi momenti in cui ha lavorato da McDonald's e poi in un altro posto come piastrellista. E lui cosa ha detto? La sua posizione, diciamo, ovviamente tutti, l'obiezione che tutti gli fanno è: se lo facessero tutti questa cosa qui come funzionerebbe? E lui a questo, alla prima risposta di pancia, non è una gran risposta, perché dice ma tanto questo non succede. Ma in realtà la cosa che mi sembra buona è che lui dice: secondo me il lavoro non è moralmente superiore all'ozio, cioè e soprattutto lui dice questa cosa qua non accadrà perché il 95% della popolazione vorrà avere, dopo diciamo aver iniziato ad avere il sussidio, vorrà avere anche una casa, una seconda casa, un'automobile, fare le vacanze a Londra, a Ibiza, e quindi in realtà le persone inizierebbero a lavorare non per fare il bene della società, ma per potersi permettere e arricchire loro stessi. Mi sembra una bella scusa per non fare un tubo. Tu, esatto. Gabardini, ti candidi a fare il Robert italiano? No, minimamente, anche perché poi secondo me la notizia ha una coda di per sé, perché lui in realtà adesso vende magliette su un sito, quindi non ha nessun bisogno del sussidio, e direi per la giusta chiusa ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni municipali a Copenaghen. Ah, vabbè, allora. E quindi direi che i maligni potrebbero dire beh, è la stessa cosa, nel senso che il modo migliore per guadagnare tanto e fare il meno possibile forse è fare il politico. E c'è arrivato anche Robert. Esatto. Va bene. Torniamo in Italia, Caserta, dove il sindaco Raimondo Cuccaro, il primo cittadino in realtà di Pignataro Maggiore, siccome ci sono un sacco di richieste di risarcimenti al comune per le buche nelle strade, anche per i cani randagi, ha avuto una brillante idea. Ha detto: io adesso faccio un'ordinanza anti-lamentela. E tutti si sono chiesti: oddio, che cosa sarà? Sarà chissà che geniale stratagemma si inventerà. Invece lui ha fatto un bel cartello con su scritto: attenzione, strade dissestate, piene di inside e trabocchetti, possibile presenza di cani randagi, mettendoci tutti i suoi problemi. Dopodiché ha fatto l'ordinanza in cui ha scritto: agli avvocati conducenti delle auto, nonché i pedoni, si avvisa che le strade della nostra città stradina, come da segnaletica esposta, cioè il cartello di qui sopra, sono piene di insidie e trabocchetti, per cui ogni richiesta di risarcimento danni alle cose o alle persone è addebitabile all'imprudenza, negligenza o imperizia del conducente o del pedone. Cioè, io me ne lavo le mani, ho scritto attenzione, è tutto molto pericoloso, qualunque cosa succede sono fatti vostri. Beh, sarebbe come se il ministro dell'economia dicesse non c'è lavoro, io vi ho avvisato, adesso esatto. Però non mi venite a chiedere a me di fare qualcosa. Esatto, è come se nella bravo Costituzione scrivessero articolo 100, potrebbe non esserci lavoro. Chi è punto. Questo sindaco simpatico? Di che Raimondo Cuccaro. Bah. Poi, siccome io ho una passione, sì, diciamo, per i cosiddetti rapinatori della domenica o i malviventi maldestri, settimana scorsa avevamo il signore di Parma che è andato a rapinare una banca prendendo una bicicletta del comune, del bike sharing, quindi lasciando anche la propria carta di credito a buon conto per farsi prendere. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove una ragazza giovane californiana, Jessie Mulligan, manda un messaggino in cui propone delle dosi di fentanyl, che è un opiacio, e però sbaglia numero, invece di mandarlo, diciamo, a un cliente, lo manda a un numero qualunque. Purtroppo questo numero qualunque è proprio il numero di un poliziotto, il quale richiama e dice: guardi, vengo io e la arrestiamo. A proposito di intercettazioni di Grande Fratello, qua ci si è messa anche la sfiga. Ma qui, tra l'altro, punto di vista nessun bisogno di intercettazione. Ma sempre per diciamo malviventi maldestri, mi sembra più divertente la storia invece che si svolge qua a Milano, dove due fratelli egiziani e un operaio italiano di 25 anni, che sono spacciatori, sono, diciamo, nella loro base, nel loro covo in via Zamagna. Arriva la polizia che fa irruzione, bussano, loro si rendono conto che sta per arrivare la polizia. Presi dal panico, cosa fanno? Prendono questa valigetta che è piena di hashish e tutte le loro cosine, i loro soldi, e la buttano dalla finestra. Solo che purtroppo la buttano dalla finestra, sotto c'è il poliziotto che ha accompagnato gli altri due che stanno facendo irruzione, che gli arriva, diciamo, la valigetta in testa, e quindi li beccano tutti. Non hanno neanche dovuto sequestrare il corpo del reato. Esatto. 9:50. Questa era la notizia di Gabardini. Adesso abbiamo ancora un po' di spazio però per sentire un paio di ascoltatori, perché oggi si vincono i biglietti. Assolutamente. Per la mostra di Andy Warhol. Li voglio vincere anch'io. Abbiamo Fiorella che chiama da Chieti. Buongiorno. Sì, buongiorno, signor Maurizio. Prego. Io volevo dare la definizione di coraggio semplicemente, sì, dicendo che guardare lontano considerando la meta già nel proprio sguardo. Infatti il coraggio lo si vede negli occhi, nel fare di una persona, non certo nelle parole, lo sappiamo bene, ed è già per lui, per la persona che noi stiamo guardando con il coraggio negli occhi, una meta raggiunta, un qualcosa di già fatto, già definito. Cioè la sua è un po' una definizione metaforica. Grazie Fiorella. Fiorella da Chieti. Sentiamo anche Carla da Genova. Buongiorno Carla. Buongiorno. Pronto? Pronto. Tocca a lei, a un minuto, prego. Sì, dicevo che coraggio è aver paura ma andare avanti. Va bene, Carla. Aver paura ma andare avanti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. Vi ricordiamo anche i nostri contatti. Su Facebook si può fare, trattino Radio 24, su Twitter @ si può fare 24, il nostro account. Tra poco sentiremo anche il sindaco di Venezia, Orsoni, città candidata a capitale europea della cultura. Ma insomma, il sindaco di un'importante città, se avete qualche domanda da rivolgergli ci potete scrivere, noi gliela faremo. Per esempio sulla questione delle grandi navi, che insomma il governo dovrebbe intervenire prima o poi per evitare. Ah, cioè, lo chiamiamo in realtà perché è per la città della cultura, però poi gli facciamo il trappolone. Esatto, a trabocchetto, giustissimo. A proposito degli argomenti, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, argomenti di cui parliamo oggi, ci sono due sms che voglio leggervi. Dice un ascoltatore che non si firma: Renzi, anche se vince, rimarrà ingabbiato dalla macchina vecchia del Partito Democratico. In effetti questo è quello di cui abbiamo parlato anche con Stefano Menichini, direttore di Europa. Si parla già del fatto che i signori delle tessere del PD, che ieri sono presentati anche alla Leopolda, prima o poi passeranno all'incasso per ingabbiare Matteo Renzi. Poi un altro ascoltatore ci scrive a proposito del Datagate, e anche questa è una riflessione non male, Gabardini. Penso che se lo scandalo fosse avvenuto sotto l'amministrazione Bush, le piazze sarebbero piene di pacifizzatori. Cioè, penso che ci abbia ragione. Delle proteste. È molto giusto questo. Però questo è vero, appunto, che qualcosa c'è stato, perché sì, adesso non la trovo. No, ma no, la prima pagina della Stampa di oggi c'ha una foto con le manifestazioni piccole che ci sono state. Ma ci sono state manifestazioni, però mi sembra giusto l'appunto di dire che se ci fosse stato Bush probabilmente scoppiava il fatto di dire è un nuovo nazismo, sarebbero sprecate delle parole. Però guarda, grosse. Qui c'è la foto della stampa, non è male, ci sono i signori con i mascheroni e con scritto Obama Cam, insomma proteste con cartelloni all'americana, insomma davanti al National Security Agency, quindi qualche protesta c'è stata. Certo, non ci sono riempite le piazze. Ma c'è ancora tempo comunque per riempire. C'è ancora tempo, chi vuole andare datevi appuntamento. Vabbè, c'è il weekend, se volete darvi appuntamento anche tramite i microfoni Radio 24 va benissimo, 800 24 00 24. Angela dalla provincia di Milano, abbiamo anche il concorso su Warhol, lei per cosa chiamava? Per una definizione del coraggio. Via. Per me è un'azione del cuore il coraggio. Angela da Milano, un'azione del cuore. Sì, si ferma perché... qua la sua definizione o altri dettagli? Perché non Ma è perché chiarissimo. Perché in effetti uno non è che, non so, se deve fare qualcosa per gli altri, no? Aiutare, eccetera, non è che pensa. È il cuore che è lo il cuore spinge. Che comanda. Va bene. Intende cuore, diciamo, una reazione istintiva di pancia, in questo senso. Certo, certo, non è una cosa pensata. Tra cuore e pancia. Grazie, Donatella. Grazie. Poi volevo intervenire. Sì, prego. Io volevo dire una cosa, cioè Berlusconi può essere anche un uomo intelligente, ma per me è soltanto un furbacchione, che è un aspetto dell'intelligenza, cioè un'intelligenza soggettiva, che uno fa le cose soltanto per i propri interessi. Cioè lei ha voluto ricollegare la politica, l'attualità politica, il suo punto di vista con quello che abbiamo chiesto 2 settimane fa, la definizione di intelligenza. Quindi ha fatto un volo pindarico. Bello, è un trailer della nostra trasmissione, direi. Grazie Donatella, perché oggi chiediamo coraggio? No, era Angela. Ah sì, era Angela, sì, scusa, ho sbagliato. No, perché dopo noi dobbiamo votare perché per chi vince i 2 biglietti, non è che lo dicevo per fare il precisetti. No, adesso tra l'altro Donatella la chiamiamo. Chiediamo il coraggio perché questa settimana è stata la settimana in cui si è eletta la Presidente della Commissione Antimafia e al di là delle polemiche su Rosy Bindi da parte del PDL, per combattere la mafia ci vuole coraggio e quindi abbiamo pensato coraggio. Poi giusto. C'è anche la vicenda del 19enne morto a Lecco, bisogna ancora indagare, scusate, morto in Inghilterra di Lecco, bisogna ancora indagare perché questi lituani li hanno aggrediti, lui e l'altro connazionale, però anche questo come spunto di riflessione ci sembrava, per andare all'estero, per tentare una scommessa come questa, anche qua ci vuole coraggio e quindi la parola della settimana ci sembrava questa. Donatella, per l'appunto. Buongiorno. Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno. Una delle mie definizioni preferite, sì, dicevo prima, in realtà viene da un libro abbastanza famoso che è How to Kill a Mockingbird, in italiano Il buio se la siepre, di Harper Lee, ed è il personaggio di Atticus che la dice, e tradotto in italiano più o meno dice che coraggio, vero coraggio, è quando si sa che si sarà sconfitti o si prenderà una bella batosta ancora prima di incominciare a fare qualcosa in cui si crede, però si incomincia lo stesso a fare e la si porta a termine, non importa quello che succede, perché anche se qualche volta, diciamo, anche se è molto raro vincere, qualche volta succede che si vince, ma lo si fa per un motivo etico. Adesso non so se conoscete. Donatella, è lunghissima questa definizione. Piace. Donatella, ma lei questa cosa qua ce l'aveva già pronta prima che noi facessimo la domanda, e quindi quando abbiamo fatto la domanda ha detto oggi è il mio giorno, perché no, lei no, vai, no. C'ho Harper Lee qui. In realtà per me il coraggio è un discorso su cui ho lavorato parecchio, ci ho pensato spesso, e quando penso al coraggio la definizione migliore per me è questa, perché vuol dire io non è solo che lo faccio perché credo. È chiaro, la definizione era solo una curiosità la mia. Grazie Donatella, 800 24 00 24. Tra poco sentiamo anche altri ascoltatori. stavo chiedendo se Roberto Scaltritti era nato, il nostro regista, quando c'era questa canzone qua. Adesso Giorgio De Luca in redazione sta cercando. Pensa cosa siamo andati a ripescare. Che bei ricordi. Francesco Salvi. Era Sanremo, credo, che l'avesse presentata a Sanremo questa canzone o no? Mi pare no, di sì. No, questo non credo. Secondo me sì. L'aveva presentata in molte discoteche in cui io andavo, direi. Questo di sicuro. E questo denota la tua begnarda età. Esatto. Non so se riusciamo a trovare l'anno. Comunque, Francesco Salvi, c'è la macchina qua, devi metterla là. Perché vogliamo parlare di un'iniziativa che riguarda le macchine, ma ovvio, non parliamo del traffico. Siccome, ripetiamo, è stata la settimana, tra l'altro è stata la giornata europea delle vittime della mafia, si è eletta la presidenza della commissione antimafia fra mille polemiche, Rosy Bindi. Noi ci siamo chiesti, ma cos'è oggi la mafia, l'antimafia, che cos'è oggi la legalità? Perché insomma sono argomenti di cui si parla, però ci sono anche delle iniziative particolari. Per esempio legalità a Palermo è anche fare una lotta ai posteggiatori abusivi. Perché, direi tu? Perché? Perché sì, sono abusivi, immagino. Perché ti chiedono i soldi. Non ci sono solo a Palermo, possiamo dire. Diventa una forma di pizzo anche quella. Sì, però evidentemente lì lo fanno con particolare insistenza. Allora, siccome c'è appunto un gruppo che è nato proprio su questo a Palermo, che oggi tra l'altro si riunisce, noi abbiamo convocato uno degli animatori di questa iniziativa, Tano Crivello. Buongiorno, Tano. Buongiorno a tutti, salve. Allora, intanto ce l'abbiamo l'anno della musica di Salvi? Che anno era? Era l'89, Roberto Scaltritti era nato, Tano, tu eri nato quando... Sì, sono nato all'85. Vedi, eri piccolo. Però, insomma, questa canzoncina qua la conoscevano tutti. Allora, perché avete fatto una pagina Facebook e poi delle iniziative contro i posteggiatori abusivi, Tano? Allora, in primis, diciamo che l'abbiamo fatto per fare un po' di promozione culturale a Palermo, perché alcune volte si tende a fare a Palermo ciò che nelle altre città diciamo impossibile fare, ovvero per noi è normalissimo, ovvero per molte persone di Palermo è normale parlare di posteggiatore abusivo, cosa che comunque in altre città invece non è per niente normale. Quanto costa il parcheggio abusivo? Ti chiedo in genere. Il parcheggiatore abusivo varia dai 50 centesimi ai 10 euro secondo la zona di Palermo. Allora, 10 euro è il posteggio con bagno? È il box chiuso? Dicevo, di solito si fa questa tariffa quando ci sono i grandi concerti, ovvero quando arrivano i grandi personaggi e sono al Allora uno per non perdere tempo cerca il parcheggio, c'è il posteggiatore abusivo, tac. Comunque i posteggi abusivi ci sono in tutte le città, giusto? Il posteggiatore abusivo non ha proprio il compito di trovarti il posto, diciamo che anche a il compito, ma la maggior parte delle volte il posteggiatore abusivo è lì, non ti cerca il posto ma pretende solo i soldi. Tano, fermiamoci un secondo, scusami, perché dobbiamo lanciare subito il traffico a proposito di auto e poi ci spieghi meglio perché oltre a questa cosa di promozione culturale di Palermo avete animato una pagina Facebook ma anche delle iniziative pubbliche proprio contro i posteggiatori abusivi a Palermo. Traffico. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In compagnia di Tano Crivello, animatore della pagina Facebook Posteggiamo i posteggiatori. Veniamo proprio a bomba di questa iniziativa. Vi siete stufati di pagare questo obolo ingiustificato e credo vi siate anche detti, beh, insomma, se parliamo di legalità dobbiamo aprire gli occhi anche di fronte a cose piccole che però abbiamo di fronte tutti i giorni. È questo un po' il senso, Tano? Sì, sì, praticamente è questo. Infatti noi siamo anche uniti ad altri gruppi che hanno preso come lotta altri piccoli problemi di Palermo. Quindi di solito facciamo delle riunioni insieme a questi altri gruppi per cercare di cambiare un po' la nostra città, che è favolosa, che è fantastica. Non so se voi siete a Palermo. Ma c'è qualcuno che dice invece che no, poverini, perché saranno chi fa il posteggiatore abusivo... evidentemente non ha altri modi, non ha altri lavori, è il suo modo di sostentarsi. Guarda, proprio la nostra lotta è rivolta a queste persone. Sì. Nel senso, non siamo rivolti personalmente ai posteggiatori abusivi, ma noi lottiamo per cambiare la mente di queste persone che pensano che pagare sia giusto perché loro sono dei poveri morti di fame. Invece no, 2 anni fa è stato arrestato un posteggiatore abusivo che era nulla tenente, però intanto si era fatto una villa di 2 milioni di euro. Questo 2 anni fa. Però questo è il solito, sono i casi, è come dire che beccano il barbone che poi ha già tanti soldi, o quello che vende le rose che ha già tanti soldi, che poi diventa giustificazione per non fare mai la carità. No? Non solo questo, no, ogni giorno. Tanto per tagliare la testa al toro, al di là del caso limite del posteggiatore che aveva la casa a 2 milioni di euro, beato lui. E coi box, spero. Aveva anche avuto tanti box facendo il posteggiatore, o no? Si portava il lavoro anche a casa. No, ma Tano, c'è dietro quella cosa del posteggio abusivo anche la criminalità organizzata a Palermo, almeno secondo quello che sapete voi, o no? Sì. Io posso dirti che abbiamo fatto un incontro col questore, sì, e il questore ci ha detto che naturalmente non si tratta di vera e propria mafia, ma è proprio un'organizzazione mafiosa, ovvero che si tratta di capi che comunque gestiscono delle zone, e le zone sono gestite da altri piccoli capetti che gestiscono altre piccole persone. È una sottomarca della mafia, diciamo. Diciamo che è una criminalità organizzata. È una filiale minore di questo franchising. Sì. Diciamo di sì. E quindi comunque questo porta alle casse di queste organizzazioni moltissimi soldi. Ho fatto una stima che sono più di 6 milioni l'anno, non solo a Palermo, nel sud Italia, Campania. No, scusami, Tano, visto che avete parlato con la questura, vi ha dato dei numeri, delle cifre, delle informazioni. 6 milioni l'anno a Palermo o dove? No, a sud Italia, quindi sud Italia. Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, tutta la parte del sud. Vabbè, insomma, non è poco, in effetti, 6 milioni solo dai posteggi abusivi, che andrebbero, diciamo, ad alimentare questi circuiti di criminalità organizzata minore, però parallela, e comunque non solo di poveracci o persone che hanno bisogno e lo fanno per questo. Mi spieghi però una cosa, ci spieghi a tutti noi, Tano, cosa fate voi quando vi ritrovate? Cioè, le vostre iniziative, oltre a discutere e ad animare questa pagina Facebook, cioè andate lì dove ci sono i posteggiatori abusivi, ci parlate, cercate di convincerli, di trovate un lavoro, che cosa fate? Ma, come ti dicevo io, noi, la nostra promozione è verso le persone, non è verso i posteggiatori, ovvero verso gli abitanti di Palermo che hanno la mentalità a pagare il posteggiatore. Quindi noi abbiamo fatto un flash mob il 22 dicembre 2012, abbiamo raccolto delle firme per una petizione, abbiamo fatto un video dove abbiamo messo tutti i partecipanti del gruppo, hanno messo la faccia per spiegare alle persone che non è giusto pagare il posteggiatore e il perché non è giusto pagare il posteggiatore. Questo video su YouTube. Ma scusami, volevo farti una domanda, nel senso che voi quello che dite è: signori palermitani, non pagate i posteggiatori, questo è? Sì, è come non pagare il pizzo. Se non si paga il pizzo è perché non ci sarà mai il pizzo, se non si paga il posteggiatore non ci sarà mai il posteggiatore. Certo, solo che è molto difficile, uno arriva lì con la macchina e uno dice no grazie, io non voglio pagare, questa dovrebbe essere la risposta? Sì, no, bisogna non pagare, cioè non si deve dare per forza una risposta, siccome non ci dovrebbe essere. Ma questi, Tano, questi signori posteggiatori ti chiedono ti i soldi, no, a parte ti conosco, ti chiedono i soldi, almeno io parlo lì a Palermo, in forma, diciamo, più o meno cercando di convincerti. No, non tutti, alcuni non chiedono niente. Perché sono dovuti, secondo loro, giusto? Alcuni sono molto dovuti, diciamo che le persone hanno paura a non pagare. Esatto, c'è questa... Sì, è un po' una consuetudine questa, perché non è solo a Palermo, è una cosa che è un po' in tutte le città. Io ho contatti con ragazzi di Napoli, di Catania, di Reggio Calabria, di ovunque. Quello che sto dicendo è che è molto difficile dire semplicemente ai cittadini non pagatelo, perché è la sensazione che cos'è? Io vado in un posto, mi vengono a chiedere 2 euro, se io non glieli do, che cosa succederà alla mia macchina? Ritroverò la mia macchina? Forse questo qui, tra tutte le macchine che ha lì, è questo il problema, giusto? Guarda, allora, intanto noi, proprio la nostra domanda è questa, di informare la gente, di contrastarli come? Non dando una risposta certa, chiamando la polizia quando si ha un piccolo presentimento di scasso della macchina, denunciando. Abbiamo avuto in questo ultimo anno, dove il gruppo è stato creato, un aumento di denunce da parte dei cittadini alla questura, alla polizia, sì, elevatissimo, cosa che negli altri anni non c'era. Quindi questa è stata la nostra piccola conquista, insieme ai 10.030 persone in più che non pagano il posteggiatore da un anno a questa parte. Senti, Tano, volevamo anche chiederti un'altra cosa, però, dato che, anche se su temi minori come questo dei posteggi abusivi, voi fate delle iniziative sulla legalità a Palermo, è stata eletta la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi, un politico di vecchio corso. C'è stata molta polemica perché qualcun altro, il PDL, non la voleva. Secondo voi è giusto che un politico sia presidente della commissione antimafia? Si combatte anche così la mafia? Oppure ci voleva una persona, come ha detto qualcuno, di un ex magistrato in politica, tecnica? Non entro in politica, però devo dire che dopo aver avuto Grasso come presidente della commissione antimafia, adesso Sibindi è un po'. c'è un po' una caduta, insomma. Sì, sì. Si poteva cercare qualcosa. Pensieri di grasso? Palermitano, grasso. Sì, palermitano, l'ho conosciuto, è una bellissima persona. Grazie mille, Tano, anche per questo giudizio. Buon lavoro. Oggi c'è l'assemblea, tra l'altro, no? Vi ritrovate, non so se l'hai già detto, oggi a Palermo, o abbiamo letto male? Senta? Oggi, non fate un'altra assemblea oggi, posteggiamo sì. I posteggiatori. Dove? Oggi abbiamo alle 4:30, di fronte alla chiesa della Catena, alla Cala, a Palermo. Così, sfruttiamo anche la pubblicità della radio per... Grazie mille per questa occasione. Grazie mille, Tano Crivello da Palermo. Grazie, direi che possiamo chiudere con la battuta di Benigni. Il problema di Palermo è il traffico. Il traffico, ti ricordi? Infatti è un po' quello che è il rischio, che sì. Sembri un po' di occuparsi di un problema molto sì. Secondario. Sembra ridicolo, è un po' però quello. Poi è che una mini forma di illegalità che ci troviamo di fronte tutti i giorni. Allora loro hanno detto reagiamo anche di fronte a questo. A proposito di illegalità, c'è un'iniziativa che vi vogliamo segnalare. Sentiamo. Michelina Capato Sartone, presidente della cooperativa Estia, ci presenta l'iniziativa realizzata nella falegnameria del carcere di Milano Bollate. È un progetto che si chiama Viva Wood ed è un progetto di realizzazione di giochi per bambini in legno naturale con un montaggio senza viti, senza chiodi, in modo che sia tutto ad incastri, ed è pensato affinché attraverso questo persone detenute nel carcere di Bollate, quindi istituto che è molto attento ai percorsi di reinserimento e di restituzione sociale, permetta contestualmente di fare un pensiero su progetti economicamente sostenibili, che vuol dire non venduti in filiera lunga ma in modo diretto, in modo da poter contenere il costo, e il fatto che da questa ne nasca una professionalità e nel frattempo uno stipendio a contratto nazionale di lavoro per i falegnami della cooperativa. E quindi per Natale avremo dei nuovi giochi a un costo decoroso per il rispetto dei contratti nazionali di lavoro, anche un prezzo decoroso rispetto a quello che le famiglie possono immaginare di spendere in un momento di questo tipo. E questa era l'iniziativa. Adesso 800 24 00 24 riprendiamo a sentire un po' di ascoltatori e abbiamo Giovanni intanto che ci chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno Giovanni. No, di Aulla. Di Aulla. Di Aulla, buongiorno lo stesso. Aulla, provincia di Marsia. Che non è provincia di Aulla. Anche perché Monza non è provincia di Marsia. No, Monza è proprio un'altra città, però avevamo letto così, avevamo capito male. Giovanni, Monza e Brianza, mi sono una... La conosco anche quando vivevo a Milano, no? Intanto, complimenti per la trasmissione. Grazie. Lei su cosa voleva intervenire? Si tratta appunto questo discorso del posteggio a Palermo abusivo con sì? Coraggio della settimana. Con l'argomento del coraggio sulla settimana. Sì. Perché dico, io sono d'accordo, ho sentito un attimino l'intervento di questi ragazzi di Palermo che non conosco, io sono di Palermo, sono da Palermo, ma ci sono stato qualche anno fa e ho vissuto proprio sulla mia pelle questa situazione. Perché a parte la questione culturale che esiste in ogni palermitano, c'è anche un problema istituzionale. Sì. Che nessuno forse ha il coraggio o la paura di affrontare. Insomma, vabbè, Giovanni, lei ma qual è il problema? L'ha presa un po' largo il discorso, voleva dare la definizione di coraggio? No. Allora, in due parole, dico io personalmente sulla mia pelle sì. Ho vissuto un paio di volte in certi posteggi di Palermo. Sì. Mi è stato detto addirittura, e ho verificato, che alle 2 di pomeriggio spengono addirittura le macchinette del posteggio regolare, diciamo, dove si va a prendere per far entrare in azione i passeggiatori abusivi, questo. Ecco, è una mia domanda, perché io praticamente facevo la figura dello straniero, no? Sì. Mi sono tornato dopo 30 anni, ma lei da dove viene, ma cosa fa? Vabbè, insomma, Giovanni cosa voleva dire? Quindi lei denuncia questa cosa qua, le istituzioni complici, perché se le spengono le dice che lo spegne il comune. Le istituzioni ci sono, in quel caso lì sono chi porta la divisa. Va bene, la prossima volta che parleremo con gli amici di Palermo gli chiederemo a conto anche di questa cosa qua. Le macchinette. Giovanni, lei voleva dire anche una definizione di coraggio per partecipare a visto. Ci vuole coraggio. Il coraggio non viene solo prima che dal cuore, viene dal fegato. E quindi le cose bisogna farle veramente con dignità. Quando non si ha questo coraggio dignitoso, tutto si perde nel tempo, Grazie Giovanni, ma noi vogliamo la definizione, non chiacchiere intorno al coraggio, la definizione, quella più giusta, più bella, a giudizio insindacabile nostro, vince i biglietti per la mostra di Warhol. Vogliamo fare anche un'altra ascoltatrice? La facciamo dopo. Allora Liliana dalla provincia di Venezia, la sentiamo dopo la pausa. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, allora 800 24 00 24, l'avevamo annunciata Liliana dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, io sono del comune di Venezia, sono di Venezia Mestre. Sì. Io ho telefonato perché ho ascoltato che quanto avrebbe deciso il nostro sindaco Orsoni, cioè? Di la città di Venezia, città della cultura europea. Ah sì, la candidatura, ne parliamo tra poco. Ci sta bruciando la notizia. Ecco, secondo me è proprio l'ultima cosa che il sindaco deve pensare, per il semplice fatto che questa città viene tutti gli anni visitata, tra virgolette, ma usata, gettata, strapazzata da 20 milioni di presenze. Ce ne sono già troppi, lei dice, non c'è bisogno di fare anche questa. No, ma le sembra che non siano troppi, 20 milioni. Guardi, di Liliana, la domanda... È un po' l'essenza di Venezia, però, la domanda questa. La giriamo al sindaco Orsoni e no, vediamo che solo, ne pensa. Sì? Visto che vuole decidere, vuole proporre Venezia come città turistica, che cominciasse a definire che le grandi navi non devono va bene, più entrare. Questa domanda a gliela facciamo sicuramente. Ma non la sta proponendo Liliana. come città turistica. Venezia è la città turistica per eccellenza proprio. La sta proponendo come capitale della cultura. Vabbè, ma non ci realtà... scaldiamo adesso che non c'è ancora il sindaco di Venezia. Ma sennò caldo ci bruciamo tutte le notizie. Perché fra poco. Sembro caldo? No, è la signora che ti ha riscaldato. Sentiamo Davide dalla provincia stavolta. Forse sì, di Monza? Davide? Sì, Monza e Brianza. Eccolo qua, Davide. Sì, ma mi hai insaputa. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa... Devo dare la definizione di coraggio. Perfetto, qual è la sua definizione? La mia definizione di coraggio è il coraggio è sapere sostenere con forza le proprie opinioni in contrasto, secondo me, col dilagante immobilismo piuttosto che col conformismo, piuttosto che parlando di massimi sistemi contro il pensiero unico. E attenzione ad essere preparati e consapevoli che bisognerà sostenere le possibili ritorsioni. Ok Davide, la sua definizione, la sintetizzo, è andare avanti contro, sostenere le proprie opinioni contro il conformismo. Questa è la definizione di Davide di coraggio. Tra poco ne sentiremo delle altre. Adesso invece però andiamo a Venezia. Abbiamo già annunciato il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. È un grande piacere averla qua, il sindaco di una grandissima, importantissima città. Allora, non so se lei ha sentito già un pochino, se era all'ascolto della radio, perché non era ancora in collegamento. Noi avevamo annunciato la sua intervista, e anche l'argomento, la candidatura a capitale europea della cultura 2019, e abbiamo detto, ascoltatori, se avete delle domande da fare al sindaco, fatecele. Un'ascoltatrice ci ha chiamato e ha detto... che è contraria, quindi la prima domanda che potrei farle è, o che magari le faccio tra un attimo, intanto gliel'annuncio, è questa, così la aggiorno, se no rimane indietro, che insomma Venezia è già una città che c'ha, che credo la signora abbia detto 22 milioni 20, sì, 20. Di turisti, sono già troppi, non c'è bisogno di fare la capitale europea della cultura, semmai il sindaco si occupasse del tema delle grandi navi. Ora non so se vuole rispondere subito o se vogliamo prima entrare un po' nel vivo dell'argomento della candidatura di Venezia. Noi stiamo seguendo tutte le città che si stanno candidando, ne abbiamo fatte molte, oggi volevamo dedicare spazio anche a voi, sindaco. Sì, ma insomma, intanto posso rispondere che delle grandi navi mi sto già occupando in modo, come dire, molto, molto intenso. Quello è un altro argomento. Così come la candidatura alla capitale della cultura non è certo fatta per attirare turisti, è una cosa diversa, e capitale della cultura vuol dire mettere in evidenza quali sono le ragioni culturali che uniscono tutta una serie di territori. Questa è la la innovatività della nostra proposta. Non è solo una città, Venezia, su questo posso essere d'accordo, non ha bisogno di sì. essere nominata capitale della cultura, è già una città che di cultura ne esprime moltissima, non direi anche troppa, perché di cultura non ce ne va abbastanza. Giusto. ma soprattutto la città non ha bisogno di esporsi per attirare turisti. Sì, perché una cosa che non ho detto, mi scusi Orsoni, è che in effetti il nome della candidatura forse è più ampio, comprende Nord-Est 2019. Sì, appunto la nostra proposta è una proposta più complessiva. Molto innovativa, più complessiva, perché vogliamo mettere insieme dei territori che hanno tante ragioni culturali per stare insieme e che però esprimono anche tante diversità, perché siamo a cavallo di una regione europea in cui ci sono culture diverse che provengono dalla cultura tedesca come da quella slovena, che però vengono amalgamate in una storia e in un passato che ha tantissimi punti di contatto. Cioè è un po' il tema della Mitteleuropa che fra l'altro vi giocate anche con Trieste, che è l'altra città italiana che ha un po' questa vocazione, però Venezia certamente non è Trieste però è di questa sì. partita, questo è anche significativo che di questa partita ci sia ecco, Trieste. Ma ci chiarisca, siete insieme? Quanti si è? Cioè come si allarga questo Nord-Est che fa capo a Venezia? Allora, la proposta riguarda la Venezia, ovviamente, perché sì. la proposta viene da una città, ma poi c'è tutta la regione del Veneto, il Trentino, l'Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, con tutte le loro città, con tutte le loro culture particolari. Quindi è un modo per guardare a queste terre anche dall'interno, cioè per metterle insieme, per creare un network culturale che fra l'altro a 100 anni dalla pace che ha visto in questi territori anche consumarsi uno scontro molto forte, molto cruento, ha un significato particolarissimo. Quindi va letta non come una proposta di Venezia all'esterno, al mondo, per attirare turisti, per farsi più bella, diciamo, ma è una proposta che guarda all'interno delle nostre terre, guarda a tutto ciò che ci unisce in un ambito europeo che vuole essere sempre più omogeneo. Ecco, ma se dovesse dare Gabardini una domanda. Volevo capire se può essere che si decida di far diventare la capitale europea non un'unica città, ma un distretto. Quindi come state? No, non necessariamente, cioè capitale Venezia, ma la proposta che Venezia fa assieme a questi territori è di valorizzare tutto. Questo l'ho compreso bene, che sia di valorizzare, ma mi chiedevo se anche diciamo l'Europa poteva decidere di darlo proprio a un distretto, cioè di non darlo solo a Venezia, ma di darlo a tutto questo distretto del Nord-Est, che mi sembra molto grande e anche composito, diciamo, cioè dentro Trieste, Val d'Aosta. L'Europa l'ha già fatto in altre occasioni, promuovendo altri distretti, non ne sarebbe del tutto una novità, sì. ed è sempre in bilico in questa scelta se promuovere una città sola o un ambito infatti ho interessato perché mi sembra bello. Però è una cosa in realtà che stanno facendo, mi scusi sindaco se la interrompo, sì. una cosa che in realtà lo dico agli ascoltatori, stanno facendo anche altre città, perché se non ricordo male anche Ravenna parla di un distretto e altri, Perugia lo fa insieme ad Assisi, si cerca un po' di agglomerare, di accomunare le forze. Se lei dovesse dare in 30 secondi un momento proprio spot, no? Perché Venezia capitale della cultura, come sintetizzerebbe il tutto? Però? Ma perché questa proposta è una proposta che coinvolge ampi territori e mette insieme un ambito culturale molto significativo anche a livello europeo, quindi guarda molto fortemente ad una integrazione europea, cosa di cui credo ci sia molto bisogno. Abbiamo fatto anche il momento prologo, perché lo chiediamo a tutti i sindaci che sponsorizzano la loro città, è giusto farlo anche con lei. Senta, però lei ha accennato al tema grandi navi, le navi che enormi che passano in laguna a Venezia. C'è una scadenza, credo, anche del che ci sarà dato il governo per intervenire entro fine ottobre, non ricordo male. Lei ha detto stiamo procedendo, stiamo facendo, c'è stata anche una petizione di nuovo rilanciata da Gabriele Muccino qualche giorno fa, 70.000 adesioni, quindi a che punto siamo? Ma quindi io devo dire che vorrei tranquillizzare tutti che la questione è in cima ai miei pensieri, anche se purtroppo sono l'unico di tutti questi attori che non avrebbe un potere diretto sulle decisioni, perché spettano evidentemente soprattutto al governo, ma nessuno può negare che il comune non possa dire la sua e non possa regolare l'uso del proprio territorio. Questo è stato fatto con il piano di assetto del territorio. Se non dovessero arrivare delle decisioni rapide da parte del governo, certamente qualcosa io farò, mi attiverò perché questo fenomeno debba cessare. Perché il ministro Lupi aveva detto che ci sarebbe stata una decisione, non ricordo bene, entro fine ottobre, un nuovo tavolo, qui si va avanti di tavolo in tavolo. Sì, questo è vero, me lo ha detto anche personalmente, io devo dire ho la massima stima del ministro Lupi, so però che in questi periodi il governo è molto affannato in tante cose, quindi io ci sarà un altro rinvio, abbiamo capito. Non ho ancora avuto la convocazione, se non vi fosse la convocazione sarei costretto ad agire autonomamente. Vabbè, è inutile che le chieda adesso per fare cosa, perché lo vedremo nel momento in cui questa cosa succederà, perché altrimenti aggiungiamo inutili parole a quelle che sono già state dette su questo tema. Tutti sono d'accordo, bisogna intervenire, non si capisce perché poi il governo rimanda, ma staremo a vedere. Lei giustamente ha ricordato che ci sono anche altre priorità oltre a quella delle navi a Venezia. Senta, le vogliamo chiedere anche un'altra cosa che riguarda una particolarità di Venezia, il casinò, perché noi si può fare, ci interessiamo spesso al tema del gioco d'azzardo, non è una crociata contro le slot machine o contro i videopoker, però è una presa di coscienza di un fenomeno, fra l'altro, che riguarda molti sindaci, ne hanno parlato suoi colleghi. Non so se lei ha firmato anche lei la petizione contro le slot machine, quella che ha firmato Venezia e altre città, Napoli. Scusi, Milano. Ma sai, contro le slot machine l'avevamo fatta una dichiarazione ancora molto prima. Siamo assolutamente contrari a quel fenomeno che trovo sia un modo per imbarbarire la convivenza civile, non è un modo serio per sviluppare però una società. Voi avete il casinò, che è stato privatizzato da poco. Sì, ma infatti una delle soluzioni che si dicono potrebbe essere proprio facciamo magari qualche casinò in più, la gente va a giocare lì in determinati luoghi, si concentra lì il gioco, anziché mettere questa possibilità, questa tentazione ovunque, in tutti i quartieri con le slot house e tutti i bar con i videopoker. Voi avete recentemente privatizzato il casinò a Venezia, è così? Abbiamo in corso una procedura per affidare la gestione del nostro casinò, che resterà comunque sempre nostro, ad un privato gestore, ma solo per l'aspetto gestorio, senza toglierci tutti gli aspetti di controllo su come viene esercitato questa attività. Per cui il casinò di Venezia resta un casinò pubblico, non viene privatizzato, come si dice, se evidentemente la gara andrà a buon fine e si concluderà, ma non è detto che ciò accada. Ma perché ci sono state invece delle contestazioni in Consiglio Comunale su questa decisione, in particolare da parte del Movimento 5 Stelle? Ma forse qualcuno che non ha capito che cosa si sta facendo. L'operazione è fatta esclusivamente per rendere la nostra attività del casinò più appetibile e più ben organizzata. Ma il comune ci guadagnava col casinò o no? Il comune ci guadagnava prima che ci fossero questo fenomeno delle slot, che fosse stato diffuso il gioco nei bar, dappertutto, aveva certamente un grosso introito. Oggi la concorrenza di queste slot ha fatto diminuire di moltissimo l'introito del comune. Ecco, ma e quindi non ci, il comune non ci stava guadagnando più o ci stava guadagnando di meno? Ci spieghi? Stava guadagnando molto di meno, da 100 milioni siamo passati a meno di 20 milioni. E quindi adesso dandolo in concessione sperate di garantirvi comunque un utile senza prendervi in carico i rischi e i minori guadagni di questo periodo. Ma non c'è il rischio che questo, i privati in qualche modo, che cosa, cioè, come faranno a contrastare questa deriva del casinò? Ma il problema è molto più complesso. Il tema è questo, che un casinò oggi con la concorrenza delle slot non può sopravvivere con una clientela meramente locale. Sì. Il casinò dato in gestione ad un gruppo magari internazionale può mettersi in un network internazionale e portare clienti. E portare i clienti e come dire, rivolgersi a una clientela diversa. Va bene, noi lo ringraziamo Giorgio Orsoni, il sindaco di Venezia, per essere stato con noi. Grazie. Tra l'altro, mille. Grazie, questo tema dei casinò secondo me è interessante, visto che noi ci interessiamo sempre di slot machine, perché c'è una sorta di passaggio di testimone. Sarà interessante vedere come va a finire. Adesso però il traffico. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Insomma, hai sentito la storia di Venezia? Perché è interessante, sì. Lui ci ha spiegato che il casinò, da quando ci sono le slot machine, sono in crisi. Ma infatti è molto interessante la cosa anche che gli stavi dicendo tu, perché effettivamente, io personalmente non sono contrario ai casinò, però effettivamente per la cosa che dicevi, cioè un conto è avere queste macchinette che sono sotto casa, sì, ovunque, tu cammini, hai un momento... Cioè era hai meglio quando di... c'erano i casinò, invece stiamo scoprendo che i casinò sono in crisi proprio per le slot machine. È un po' lo stesso rapporto con le case chiuse, se possiamo buttarla lì, ma ne parliamo un'altra volta. Tra l'altro il paradosso è che sulle slot machine lo Stato ci guadagna, sui casinò, come accade a Venezia, adesso il Comune ci perde, e questo è un altro elemento. Andiamo a sentire qualche ascoltatore, ascoltatrice, Paola da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei per cosa chiamava? Per la definizione sul coraggio. Benissimo, per vincere i biglietti alla mostra di Andy Warhol, qual è la sua definizione, Paola? La mia definizione è questa, secondo me il coraggio è l'istinto ad essere migliori, nel senso che essendo il coraggio associato a un'azione positiva in genere, allora le azioni positive poi si verificano allora quando si determina un fatto improvviso, è in quel momento che si verifichi il tuo coraggio, siccome in genere l'istinto ti porta ad agire, a intervenire sui fatti, penso che faccia venire fuori il lato migliore di noi. Grazie Paola. Grazie da Napoli, mille, l'istinto a essere migliori. Sentiamo anche Patrizio che chiama da Vercelli. Buongiorno. Non so se volete intervenire su coraggio o su altro, Patrizio, cosa No, io volevo parlare invece di Venezia, purtroppo mi è scappato il sindaco. Sì. Io volevo chiedere al sindaco, praticamente sono andato in vacanza da quelle parti, sono andato poi a Venezia dopo 10 anni che non andavo più. Io penso che comunque fra le qualità dell'Italia sono anche il cibo, giusto? Ristoranti, direi tutto. Di sì. Purtroppo io sono andato in centro, nella zona di Venezia, sul 90% dei ristoranti col nome italiano, fra cui anche Felice Venezia, quindi anche l'italiano sbagliato, erano tutti gestione cinese. Cioè erano tutti gestiti da cinesi? Proponevano pizze e piatti italiani, ma erano cinesi dentro, e fuori a cogliere c'erano nordafricani, perché sono leggermente più scuri, giustamente. Sì. Però scusi italiani. Patrizio, lei ha detto il 90%, ha fatto una statistica tutta sua. Ho camminato per un bel po' lungo le vie principali, a maggior parte, non so se un giorno andrete a Venezia, fateci caso. Ci siamo stati a Venezia, diciamo, non è che siamo sempre chiusi in questo studio. Io l'ultima volta che sono stato qualche anno fa non ricordavo tutti questi cinesi, come dice lei, però può darsi che negli ultimi 3 anni che i cinesi stiano acquistando, diciamo, distribuzione di cibo, però, è in tutto il mondo. Certo, però tanto che a Venezia il sindaco sta dicendo che forse anche vuol far arrivare ancora più stranieri per il casinò. Esatto, quindi non mi siamo in Europa, però, diciamo. Ha ragione Patrizio, cioè uno va in un ristorante a Venezia in questo clima idilliaco, entra e trova i cinesi, non è il massimo, cioè dal punto di vista dell'immagine. Dipende che ristorante è. Se è un ristorante cinese, va benissimo. Esatto. Poi è proprio Venezia, diciamo, che con l'Oriente c'ha un bel rapporto, Marco Polo, direi che cinese è perfetto. Andiamo in un'altra città di mare, a Genova. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind of place. Siamo a Genova per una iniziativa Occupy Superba. Adesso detta così uno dice: ma che, di cosa state parlando? Allora intanto salutiamo il nostro ospite Paolo Spoltore. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Dell'associazione Giardini di Plastica, è così? Sì, corretto. Occupy Superba che vuol dire? Occupy Superba è un po' il nome che viene da la giornalista che ha fatto questo pezzo per definire un po' un movimento informale spontaneo che a Genova è nato per riappropriarsi un po' dello spazio principalmente verde e poi in generale dello spazio che spesso le amministrazioni poi non riescono più a mantenere. Ma diciamo, quindi non l'avete scelto voi il nome, l'ha scelto il giornalista? No, ma in realtà è il titolo dell'articolo. Infatti loro si chiamano Giardini di Plastica, il loro nome se lo sono già dati, sono io che ho preso per buono il titolo di Repubblica. Esatto. È vero che avete preso invece voi di mira lo spazio verde più grande di Genova per ripulirlo? È lo spazio verde più grande del centro storico. Sì. Che comunque il centro storico di Genova è uno dei più grandi d'Europa. Quindi quanti, diciamo che... quanti siete, Paolo, a fare questa cosa? Ma siamo partiti in pochi. Sì. Abbiamo avuto molto coraggio. Ora pian piano l'associazione si sta allargando, sta sempre prendendo più spazio tra i cittadini, tra le istituzioni. E siamo contenti di questo successo che dopo 2 o 3 anni inizia a far vedere un po' i propri frutti, anche le risposte da parte delle istituzioni che all'inizio avevano un po', diciamo, insomma, sottovalutato la nostra cioè vi vedevano volontà. Che andavate a fare questo, dicevano: ma guarda, questi chissà cosa vogliono fare, voi volevate solo andare a pulire i giardini. E in sì. effetti adesso i giardini sono cambiati, sono più puliti, sono più... com'è la situazione, sì. Paolo? Devo premettere che dall'inizio dell'area della pulizia verde da cui siamo partiti noi, poi ci siamo resi conto che, diciamo, non bastava una pulizia esterna come un corpo, ci voleva anche poi un insieme di iniziative, di attività, cose da fare. Esatto, che potessero anche poi Paolo, ti chiedevamo... che tipo di attività? Esatto. Sì, è uno spazio verde, si può partire dallo sport, si può partire dalle chiedo scusa, di attività, diciamo, per far rivivere questo spazio verde, no? Esatto. Avevo capito che fossero delle altre azioni tipo di bonifica della zona, oltre a togliere le cartacce, togliere la plastica e togliere, cioè pulirle, che ci volessero degli altri interventi. Ma cosa vuoi che si faccia in uno spazio pubblico? Si va un po' di ginnastica, non so, bonificare. Ma no, avevo capito che fossero cose per pulire questo spazio, non per farci dello sport. È iniziato con una pulizia, però siccome è un posto che deriva un po' da uno stupro urbano, diciamo, di devastazioni urbane, è stato anche abbandonato alle persone, quindi oltre la pulizia, che deve essere la pulizia vera, mera, dei cestini e delle cartacce, poi potesse essere, non bastava soltanto... Paolo, certo, adesso un modo che per siamo la città. Quasi in chiusura, esatto. In 30 secondi, quindi voi avete un ruolo nella gestione adesso di questo spazio, cioè il comune vi ha riconosciuto... Sì. Sì, inizieremo una partnership sperimentale con il municipio, che è il comune, è una parte del comune, appunto per portare avanti questa nostra idea che speriamo possa essere poi riprodotta anche in altri spazi. Grazie Paolo, dobbiamo fermarci qua, dobbiamo dire anche chi sono i vincitori oggi dei biglietti per la mostra di Andy Warhol a giudizio insindacabile della redazione, cioè di noi. Vincono Carla da Genova, Avere paura a mandare avanti, Davide da Monza, Sapere sostenere le proprie opinioni contro il conformismo, e Paolo da Napoli, L'istinto a essere migliori. Credo che siano questi i vincitori, sì, a giudizio nostro. Finisce qua la puntata, ci sentiamo sabato prossimo. Io voglio ringraziare Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma, Giorgio De Luca, Roberto Scaltritti, e io saluto tutti, sono Carlo Gabardini, ci sentiamo sabato prossimo e ringraziamo anche le nostre centraliniste, certo, a sabato. Secondo me, per salvare l'Italia, con essa tanti ragazzi che affollano senza profitto tante classi di istituti tecnici e company, basterebbe mandare questi ragazzi, dare la possibilità ad essi di frequentare qualche bottega artigiana senza aggravio per gli artigiani, in modo che poi questi possano alla fine avere delle competenze e guardare al futuro con più tranquillità. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore.